Dammi quella cosa che vuoi, dammi quella cosa che sai, spicciolo rinfusa, ma che sia qualcosa che parli soltanto di te, calmi le pupille mie stanche, spalmi la tua pace di luce soffusa. Dammi quella cosa che prendi, dammi quella cosa che ignori, perché il tuo sorriso mi appaia una rosa. Che se a me non tocchi nessuno, soffi il tuo silenzio ai miei occhi, che non suoni resa né canti vittoria. E che mi distenda i tuoi mari, rubi le colline e i colori, profumi di chiesa e tu sia mia sposa. E che si attorci ai tuoi fianchi, una giostra di gigli bianchi, sia lunga l'attesa ma non sia una scusa. Dammi quella cosa che punge le labbra, che brucia in silenzio nella gola secca, ma che sia un dolore che sciolga il sapore amaro mio nella tua bocca. Dammi quella cosa che sei, dammi quella cosa che fai, dammi la candela purché non sia accesa. Brilli in questa notte che abbassa tutte le serrande alla luna, nel pendio di stelle che il cielo riposa. Dammi quella cosa che non è speranza, ma conservi al buio della tua dispensa, che nel vuoto lasci cadere e quando l'afferri qualcosa ti manca.